Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Ben ritrovati sui 102.2 di Radio San Donà e benvenuti ad una nuova stagione di Overbooking. L'estate è finita, rimettiamo via le nostre pinne, i nostri fucili e i nostri occhiali, smettiamo di fare castelli di sabbia e finalmente si riprende a parlare di libri. Come l'anno scorso, un libro a settimana, ma quest'anno da bravi politicanti partiamo con delle promesse. Quest'estate abbiamo lavorato per voi e grazie al validissimo supporto di persone che non finirò mai di ringraziare, ossia Matteo, Nando, Giulia, Daniele ed Alice, abbiamo iniziato un progetto con il comune di Jesolo che ci dà una mano e ci permette di presentare una serie di avvenimenti a sfondo, diciamo, letterario che si svolgono appunto nell'ambito della municipalità di Jesolo. Non solo, i nostri Baldi Giovani, e con Baldi Giovani intendo Daniele, che ringrazio perché ce l'ho qui davanti, che continua con le sue esili manine a pitoccare dei tasti, Daniele appunto, Matteo e Nando si sono fatti un po' il giro del Nord Italia in diverse fiere e festival letterari, tra cui Pordenone Legge e il Festival della Letteratura di Mantova, e ci hanno portato qualcosa di succoso. Non va dimenticata Alice, che questa sera ha un ruolo assolutamente preminente e vi svelerò a breve il perché. In tutto questo uno si chiede: Alvise, tu perché sei qui? Me lo chiedo anch'io, scusatemi. Detto questo, andiamo a presentare il primo libro della nuova stagione. Si tratta di Accabadora, scritto da Michela Murgia. Perché vi presentiamo questo libro? Perché Accabadora di Michela Murgia si è aggiudicato il premio Campiello di quest'anno. Questo settembre si è aggiudicato appunto il premio Campiello, ma noi avevamo avuto l'occasione di parlare con Michela Murgia già in quel di luglio. Perché? Perché sempre al comune di Jesolo, a cui siamo estremamente riconoscenti, presso il comune di Jesolo c'era stata una presentazione dei 5 finalisti del premio Campiello. E quindi in una specie di tavola rotonda, in una serata molto, molto simpatica, anche molto godibile, c'è stata la presentazione del romanzo e dell'autore personalmente. Gli autori si sono un po' messi a nudo, anche perché come vedremo questo romanzo, ma mi viene in mente anche il romanzo di Gad Lerner, che era un altro finalista, questo romanzo è molto, in un certo senso, molto autobiografico. Voi vi chiederete, chi è l'ospite di questa sera? L'ospite di questa sera è Alice, la nostra lettrice. Buonasera, Alice. Buonasera. Che bello, voglio dire. È un po' strano parlare questa volta e non stare in silenzio e ascoltare te che dici castronate ogni volta. Vero, è un bel momento e se ne siamo tutti veramente orgogliosi. A questo punto, perché Alice, vi chiederete voi? Perché noi ai tempi di luglio avevamo organizzato una simpaticissima task force, per cui i cinque testé ringraziati, diciamo, si andavano a intervistare ciascuno un finalista. Infatti ho vinto. E quindi nella nostra piccola competition di overbooking, Alice, avendo intervistato Michela Murgia, che è la vincitrice, Alice è la nostra vincitrice di base. A questo punto... Sono molto orgogliosa di ciò, infatti... Sì, ma infatti io farei partire un applauso che ti farò solo io. E è bellissimo, un po' triste, grazie, però grazie. Carino. E a questo punto andiamo a parlare di Accabadola. Vuoi dirci qualcosa? Cosa ti ha colpito innanzitutto di questo libro? Beh, intanto non leggevo un libro da non so quanto. È una cosa vergognosissima. Ma andiamo avanti, esatto. Voglio dire. L'ho letto tipo in 2 giorni, veloce, cioè, non tanto perché dovevamo andare a fare l'intervista, quanto perché era proprio un bel libro, era scritto molto bene, infatti poi ha girato varie mani e altre varie teste che lo hanno letto e tutti, sì sì, bellissimo, bello, bello, l'ho letto subito, bellissimo, infatti questo si legge molto bene, è molto bello come libro. Allora, partiamo con molto scorrevole. Molto bello, molto scorrevole. Molto scorrevole. A questo è punto. È anche un tema un po' strano, diciamo così. Cioè, non è una cosa molto... molto usuale, sì. No, anche perché tu leggi Accabadola e dici, ma che cacchio. A questo punto, infatti, è stata più o meno la domanda che è stata posta a Michela Murgia la sera in cui presentava il suo libro, ossia Accabadola. È la prima domanda che le ho fatto, infatti, durante l'intervista. E andremo poi a sentire questa pregevole testimonianza. La storia, ce la vuoi dire tu brevemente? Sì, Accabadola, intanto, si parte da questo titolo che è... Zia Bonaria sarebbe l'Accabadora di questo paesino sardo dove è ambientato il libro, e questa vecchia, che viene chiamata proprio vecchia durante, cioè, mentre si legge il libro, si prende come fille anima una bambina, Maria, che è la quarta figlia di una vedova di guerra, che non riesce ovviamente a mantenere le figlie, e questa vecchia chiede come figlia praticamente questa bambina, e se la tiene per vari anni, insomma crescono insieme eccetera eccetera, finché non succedono un po' di cose che andiamo a dire fra un attimo. Prima di andare un po' a parlare più approfonditamente di quello che è il tema di Accabadola, andiamo a leggere l'incipit del libro, e ce lo legge ovviamente Alice perché l'ha sempre fatto e ci pare brutto toglierle questo incarico. Filus de anima. È così che li chiamano i bambini generati 2 volte, dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un'altra. Di quel secondo parto era figlia Maria Listru, frutto tardivo dell'anima di Bonaria Orrai. Quando la vecchia s'era fermata sotto la pianta del limone a parlare con sua madre Anna Teresa Listru, Maria aveva 6 anni ed era l'errore dopo 3 cose giuste. Le sue sorelle erano già signorine e lei giocava da sola per terra a fare una torta di fango impastata di formiche vive con la cura di una piccola donna. Muovevano le zampe rossastre nell'impasto, morendo lente sotto i decori di fiori di campo e lo zucchero di sabbia. Nel sole violento di luglio il dolce le cresceva in mano, bello come lo sono a volte le cose cattive. Quando la bambina sollevò la testa dal fango, vide accanto a sé Zia Bonaria Urrai, in controluce, che sorrideva con le mani appoggiate sul ventre magro, sazia di qualcosa che le aveva appena dato Anna Teresa Listrum. Cosa fosse con esattezza, Maria lo capì solo tempo dopo. Andò via con Zia Bonaria quel giorno stesso, tenendo la torta di fango in una mano e nell'altra una sporta piena di uova fresche e prezzemolo, miserabile viatico di ringraziamento. Maria, sorridendo, intuiva che da qualche parte avrebbe dovuto esserci un motivo per piangere, ma non riuscì a farselo venire in mente. Si perse anche i ricordi della faccia di sua madre mentre lei si allontanava, quasi se la fosse scordata già da tempo, nel momento misterioso in cui le figlie bambine decidono da sole cosa è meglio impastare dentro il fango delle torte. Per anni ricordò invece il cielo caldo e i piedi di Zia Bonaria nei sandali, uno che usciva e uno che si nascondeva sotto l'orlo della gonna nera, in un ballo muto di cui a fatica le gambe seguivano il ritmo. Bene, questo era l'incipit di Accabadora, che è il libro di questa sera, scritto da Michela Murgia, recente vincitrice del premio Campiello. Come avete visto, l'incipit riguarda direttamente un passaggio fondamentale della vita di Maria, che è un po' la protagonista del romanzo, che passa molto probabilmente in questa fase dall'essere bambina a non esserlo più così tanto, e abbiamo pensato di ricollegare questa canzone, che si chiama Just Like a Woman. È una canzone originariamente scritta da Bob Dylan, noi ve la ripresentiamo in una versione fatta da Charlotte Ginsburg e dai Calexico. Per voi, Just Like a Woman. Ed eccoci ritrovati sui 102.2 di Radio Sandonà, sempre in compagnia di una nuova puntata di Overbooking. Questa sera stiamo parlando assieme ad Alice di Michela Murgia e del suo Accabadora, opera prima tra l'altro di Michela Murgia, perché non bisogna dimenticarsi di questo. Ossia, noi ne stiamo parlando perché abbiamo avuto l'occasione tramite Alice di conoscere Michela Murgia direttamente, e a breve vi manderemo l'intervista che abbiamo registrato con lei. Ma Michela Murgia, come si diceva, ha recentemente vinto il Campiello 2010. Bisogna dir di più: ha vinto il Campiello 2010 alla sua prima prova sulla lunga distanza, ossia confrontata con dei finalisti molto più blasonati, mi viene in mente, e molto più conosciuti, mi viene in mente Gad Lerner o piuttosto che Caro Figlio, piuttosto che Pennacchi, fresco vincitore dello Strega. La Murgia è un po' un outsider, e però si impone con questo Accabadora. Dicevamo prima, chi è un Accabadora? È un concetto un attimo difficile da spiegare, perché è una... intanto è un'anziana qua, ma è una figura che accompagna le persone alla morte. Benissimo. Cioè, è un modo gentile per dirlo. In realtà quello che fa un Accabadora è un gesto estremo, però lo fa con, tra virgolette, delicatezza, perché accompagna una persona che sta male, che è all'estremo, l'accompagna insomma in maniera tranquilla, senza l'agonia della fine. E una cosa che a me ha colpito, e che ci ha colpito qui in, se posso dire, redazione, è il fatto che questi concetti, come il concetto stesso di accompagnare alla fine, piuttosto che il concetto di fil de anima a cui facevamo riferimento prima, vengono trattati all'interno del libro con, diciamo, con una specie di grande semplicità grande impatto, ma grande freschezza. Ossia, leggendo quello che si scrive in giro di Accabadora, si sente dire più o meno: il libro sostanzialmente tratta del tema dell'eutanasia, come poi percepiamo dalle parole stesse della scrittrice che durante l'intervista con Alice, ma anche come si legge nelle pagine di Michela Murgia. L'eutanasia è un qualcosa di altro rispetto al tema del libro. Il tema del libro è fortemente radicato in quella che è la tradizione sociale sarda, che molto probabilmente a noi, immagino a me come veneto, magari può risultare assolutamente sconosciuta, assolutamente anomala. Ma il concetto stesso di fil de anima, diceva Michela Murgia, è lei una fil de anima? Sì, esattamente. E il concetto stesso di fil de anima, che a noi può sembrare qualcosa di molto lontano, in realtà lei dice che anche qui in realtà era una cosa che si faceva in Veneto, ma che a noi effettivamente come ragazzi qui non è sconosciuto. Ma dice l'ultimo file anima è dell'84, quindi non è che sia una cosa effettivamente lontana. Molto probabilmente Michela Murgia in questo Accabadora ci racconta anche un po' di quello che è il tessuto sociale della Sardegna. Infatti è ambientato proprio negli anni 50, non è recente, come dire. Esatto, quindi in sostanza quello che ritroviamo qui è un pezzo in qualche modo di cultura e di tradizione sarda. Ora, io prima di andare a sentire l'intervista che la nostra Alice ha fatto con Michela Murgia, andrei a ricordarvi che eventualmente voi vogliate intervenire in trasmissione per dire quanto incapaci riusciamo ad essere, potete farlo telefonando allo 0421 560993 o mandandoci un fax allo 0421 560994. Vi ricordo anche che potete utilizzare l'email scrivendoci a radio@radiosandona.it e che questo programma ha un suo blog di riferimento. Il blog è www.wordpress.com /overbooking. Assolutamente no. Allora, ritento, sarà www.bloverbooking.wordpress.com. Quale scegliete delle due? Sicuramente la seconda. Questi sono i classici imbarazzi della diretta. A questo punto andiamo a sentire l'intervista fatta da Alice il 29 luglio presso il comune di Jesolo, dove è stata fatta la presentazione dei 5 finalisti del premio Campiello. Volevo chiederle del libro Accabadora. Cos'è un Accabadora? Cioè, l'ho letto, mi è piaciuta molto la definizione di ultima madre. Cosa si può dire di quest'ultima madre? È una donna che ha un concetto di maternità un po' più ampio rispetto a quello della mamma del mulino bianco a cui siamo abituati noi. È una donna che, tra le altre cose della sua vita, si occupa di chiudere, terminare, portare a compimento l'agonia degli agonizzanti, appunto, di chi arriva alla morte, di chi sta arrivando alla morte. E lo fa con uno spirito materno, con lo stesso spirito con cui la levatrice taglia il cordone umbilicale del bambino. Fa nascere un La prospettiva è questa, non è una prospettiva pietosa, ma è una prospettiva di necessità, è una cosa che è da fare e si fa, e lo fa lei. Infatti sul libro si capisce che cioè, anche se è una cosa che la rende sofferente fare, però è una cosa tra virgolette necessaria che fa per aiutare proprio la persona alla fine della vita, insomma. Cioè, sì, in senso è esattamente quello, insomma. E, cosa dire, anche il concetto di madre stessa, ma del fatto che durante la nostra vita noi abbiamo tante madri e tanti padri, che anche se non abbiamo una madre sola, comunque incontriamo tantissime madri, tantissimi padri. C'è qualcosa di autobiografico in questo libro, soprattutto anche forse il fille anima? Sì, c'è un elemento autobiografico perché io sono fille anima, cioè ho due madri e due padri. È una cosa molto difficile da capire perché il sistema italiano prevede solamente l'affido e l'adozione, e di solito in questi casi c'è un trauma all'origine. Il bambino viene affidato a un'altra famiglia perché la sua non può prendersene cura, o temporaneamente o per sempre. Nel caso del fille anima non è così, c'è un aspetto moltiplicato. Questo è un figlio moltiplicato, non è un figlio sottratto alla sua famiglia. E effettivamente questo è un aspetto che sovverte anche un po' l'immagine della famiglia naturale da cui siamo abituati, e ci anche fa riscoprire. Anche qui noi, per esempio, in Veneto non è che sia una cosa, non è una cosa che si percepisce, anzi una volta non era assolutamente contemplato qui questa cosa. Eppure ti dico che forse tu sei giovane, ma a me è capitato qui in Veneto di sentirmi dire che invece c'era l'usanza e li chiamassero proprio fiol de anima. Quindi probabilmente è un'usanza scomparsa da molto tempo, sì, invece da noi è rimasta in uso fino agli anni 80, infatti l'ultimo sulle anima della mia comunità è dell'84. Ecco, questo di comunità, cioè, il fatto che in Sardegna non si è sentita la comunità, infatti c'è questa grossa contrapposizione anche sul libro. Ci può dire di questa, della comunità in Sardegna, che poi quando Maria va a Torino, lì trova una famiglia completamente diversa da quella a cui è abituata. Certo, il contesto urbano è completamente differente. Non c'è dubbio che se mi chiedessero qual è il protagonista di questo libro, io direi che è la comunità di Fioreni, perché davvero tutte le cose che accadono sono possibili perché c'è quella comunità intorno, il contesto è quello. Come sarebbe possibile, per esempio, prendere come figlio proprio il figlio di un'altra sulla parola, senza firmare nessuna carta, se non ci fosse un paese intero a far da complice a questo atto? Come sarebbe possibile mettere fine all'agonia di un morente senza che il paese in qualche modo ti assolva e ti incarichi? Sì, tutti lo sanno, ma nessuno lo sa. Esatto, esatto. No, non, questa è una dimensione molto forte anche nella Sardegna di oggi, che va scomparendo, purtroppo, dico io, perché ho vissuto anche in contesti urbani molto più grandi come Milano e Roma, e devo dire che la cosa che mi mancava di più era questa certezza di non essere mai, di essere parte di un noi, ecco. Sì, è il paese piccolo che tutti si conoscono e poi ha, ovviamente ha dei risvolti negativi, molto negativi a non volte, puoi far niente, non puoi che tutti sanno tutto e devi giustificare qualsiasi cosa, però forse mi dava più fastidio quando avevo 16 anni, sì. Oggi a 40 mi fa più piacere sapere che se devo andare a fare la spesa chiedo alla vicina, cerco, tienimi i bambini un attimo, ecco, che lo posso fare, che a Milano una cosa del genere fantascienza pura. Un aneddoto del libro, mi è stato detto che è nato in un contesto molto particolare. Nel senso che è nato per le prime 5 pagine sono nate per partecipare a un concorso. E poi le circostanze mi hanno costretto a cercare di capire se c'era davvero una storia dietro. Ma succede spesso così, credo che siano più le cose belle che noi facciamo nella vita che qualcun altro ci ha costretto a fare, che non quelle che faremo di nostra fonte. È un bene che ci siamo vestiti. Fa uscire le cose così, anche se non dovrebbero uscire, però qualcuno fa sì che escano, no? Sì, esistono narratori che hanno decine di libri nel cassetto perché hanno necessità di scriverli anche se nessuno intende pubblicarli o nessuno li leggerà mai. Io non appartengo a quella specie di narratore, io sono nata in un contesto di narrazione orale e la storia orale nessuno la racconta da solo, non c'è qualcuno che ascolta. Io ho bisogno che qualcuno mi dica, non raccontami una storia, mettiamola in queste forme. Che è sempre una bella cosa, insomma, il rapporto anche così familiare proprio, che anche proprio nei paesi piccoli è bello perché tutti si conoscono e anche tutti... Beh, la narrazione è proprio un atto sociale da noi, come altrove andare a bere caffè, per esempio. Cioè, la sera fa così caldo che le persone tirano fuori le sediette da casa e le mettono davanti alla porta. Quindi c'è una via con tanti gruppetti, ovviamente le sedie si avvicinano, le persone parlano e qualcuno inizia a raccontare, i bambini sono intorno. Ovviamente attratti. Quindi lì tu impari a raccontare così come atto sociale. E questa era l'intervista registrata con Michela Murgia, tra l'altro Michela Murgia che ci lascia con un'immagine di questo paesino con tante sedie allineate con gente che parla e gente che si racconta, e a me viene tanto in mente il famoso Filò delle nostre campagne di non tanto tempo fa, ossia le famiglie che nelle sere d'inverno si ritrovano nella stalla e si iniziano a raccontare storie, si iniziano a raccontare aneddoti, e anche lì e anche in quel caso si può dire che la narrazione sia un fatto assolutamente sociale. Bene, un po' della trama l'abbiamo un po' capita dall'intervista che avete sentito con Michela Murgia, un po' andiamo a rivelarla noi con l'ausilio di Alice qui presente. Allora, si diceva, Maria conosce quella che sarà, diciamo, la cosiddetta vecchia, quella che la prenderà in custodia per gli anni a venire e le farà da seconda madre in un certo modo, e poi cosa succede? E poi dopo qualche anno, insomma, in cui le cose vanno normali, Maria scopre la verità, diciamo, perché da bambina ingenua era l'unica in tutto il paese praticamente a non sapere qual era effettivamente il ruolo della vecchia all'interno del paese. E scopre attraverso una serie di vicende particolari, scopre questa cosa, ci rimane molto male e decide di lasciare il paese e di andare a Torino a fare la bambinaia. Lì la maestra di scuola le aveva trovato un ingaggio, insomma, nella terraferma, nel continente, come dicono. E da lì, quindi, Maria decide di fuggire da quella che era la realtà della sua, per così dire, seconda madre. Quindi il fatto di scoprire che la vecchia avesse due vite, ossia facesse la sarta, la sarta, sì, durante il giorno, ma contemporaneamente fosse l'accabbadora del paese, mette in crisi Maria al punto tale che si vede costretta a fuggire, e ne nasce una fase della sua esistenza in cui molto probabilmente mette proprio in discussione le grandi domande che l'uomo si fa, ossia il perché esisto, il cosa faccio qui, dove vado. Sì, lei poi dice, quando era nel traghetto che la portava dalla Sardegna in terraferma, dimentica tutto quello che era stato fino a prima, cioè rinnega quasi la vita che aveva avuto da figlia, da seconda figlia, da tutto, insomma. Però dopo un po' di tempo in cui è lì a Torino, in cui fa la bambinaia, ci sono delle vicende che la fanno un attimo ricordare quello che aveva lasciato a casa. Poi le sorelle le mandavano delle lettere, finché a un certo punto effettivamente c'è l'evento della storia in cui la vecchia sta male. Eh sì, e infatti bisogna dire che il legame tra Maria e la vecchia è in un certo senso a doppio filo, ossia la vecchia accetta di prendere Maria come figlia d'anima, ma contemporaneamente Maria, sebbene non lo sappia quando viene presa come figlia d'anima, lo saprà poi con il tempo, quando diventerà matura da saperlo, Maria dovrà accompagnare la vecchia al termine della sua vita. Sì, dovrà prendersi cura, insomma, della persona anziana. Poi quel passo di accompagnarla alla fine, come effettivamente fa la zia Bonaria con il resto del paese, quello è una cosa velata che si scopre solo alla fine, che dici lo farà o non lo farà. Esatto, e questo molto probabilmente lo lasciamo al lettore, ossia tra le pagine di Michela Murgia e del suo Accabadora riuscirete a trovare una risposta a questo quesito: lo farà o non lo farà? Nel mentre noi andiamo a sentire una traccia che ci sembra assolutamente circostanziata. Si tratta di Epitaph, e questo è Belly Drum Boy. Thank you. time. I'll tread your trail with pride. Cementing on this side, I've nothing better. Questa era Epitaph di Badly Drawn Boys sui 102.2 di Radio Sandonà, sempre in compagnia di Overbooking, con me Alvise, Daniele ai microfoni e alla regia, i microfoni per quanto concerne soprattutto i volumi, perché il nostro Daniele rimane silente il più delle volte, ma potete sempre sentirlo parlare e sparlare in quel di Music for Youth, che è un programma che io vi consiglio caldamente. Io sono sempre qui in compagnia di Alice e, come dicevo, di Accabadora di Michela Murgia, che si è aggiudicato il premio Campiello di quest'anno. Allora, siamo quasi agli sgoccioli, sia come a livello di trama del libro, sia come tempi di questa trasmissione, perché ogni gioco è bello quando dura poco, e siamo al momento in cui Maria, dopo un momento di travaglio interiore legato allo scoprire chi è effettivamente la sua seconda madre, decide di prendersene cura per accompagnarla verso quello che possiamo dire essere l'estremo saluto. E abbiamo scelto... È un atto dovuto, tra l'altro, questo, non una cosa scelta. E infatti questo ci viene testimoniato dal nostro secondo pezzo che vogliamo leggere di Accabadora. Protezione o colpa? A Soreni erano questi i soli motivi che facevano penare la morte, e Maria non sapeva quale dei due impedisse davvero a Bonaria Urrai di andarsene. Nel dubbio affrontò prima di tutto quello che poteva gestire. Come aveva fatto Bonaria anni prima per lei, liberò i ripiani dalle statue del Sacro Cuore e dell'Agnello Mistico e portò via l'acqua santiera con l'alto rilievo di Santa Rita. Tolse tutti i quadretti a soggetto religioso dai muri della camera, recuperò le immaginette dalle pagine dei libri e dal fondo dei cassetti, slacciò dalle maniglie delle porte qualunque nastro verde. Stanò dagli angoli ogni pezzo di corno che fosse stato posto a guardia degli spiriti, ma soprattutto portò via la palma benedetta della Settimana Santa appesa dietro la porta, completamente secca, ma non per questo innocua. La vecchia non indossava scapolari o altri oggetti che potessero trattenerla, tranne la catenina del battesimo, che Maria ebbe cura di sfilarle dal collo con delicatezza, mentre l'altra la fissava senza una protesta. Dopo quella bonifica, attesero. Per le due settimane successive, Bonaria, così magra da ridursi alla semplice spina dorsale, continuò a vivere in sospeso sul crinale del trapasso, ma non cadde. E allora, dopo questo secondo estratto da Accabadora di Michela Murgia, noi di Overbooking vi consigliamo di affezionarvi, come è successo a noi, alla storia di Maria e di Bonaria Urrai, e quindi di andare in libreria a comprare appunto questo Accabadora, che è il fresco Campiello 2010. È un libro edito da Einaudi. Sì, è uscito tra l'altro nel 2009, per cui non è neanche recentissimo. Diciamo che a noi è piaciuto come libro perché, a parte raccontare degli scorci di vita che, come abbiamo avuto modo di dire prima, sono un qualcosa di magari lontano dalla nostra realtà quotidiana, lo stesso ci mettono in comunicazione con un mondo che, sebbene lontano, ci è vicino per determinate tematiche sociali e determinate domande che una persona si fa sulla vita, sul suo valore e su il rapporto tra la propria persona e l'altro. Quindi, proprio per questa grande umiltà con cui questi temi, seppur molto difficili, vengono trattati, noi vi consigliamo assolutamente caldamente il libro di Michela Murgia. Detto questo, a me non resta che salutarvi. Io ringrazio tantissimo Alice per essere stata qui e avermi tenuto la mano per questa puntata, e che vi ricordo essere la prima di questa nuova stagione. Sì, ringrazio anche io te, Alvise, e mi scuso per la mia parlata perché non sono abituata, ma purtroppo bisogna fare anche questo. Esatto, nella vita ci si ingegna. Ringrazio Lele che è lì con le sue agili ditine e ringrazio Matteo, Nando e Giulia che danno un po' l'anima per questo programma e che sicuramente sentiremo nelle prossime puntate. Io vi rimando per una nuova puntata di Overbooking alla settimana prossima. Andremo sempre in onda al martedì, come all'inizio di questa trasmissione. Ci trovate al martedì alle ore 20 e alla domenica poi in replica. Io vi rimando alla prossima settimana, una nuova puntata, un nuovo libro, anzi no, tre nuovi libri, perché come vi dicevo prima, da buon politicante ho potuto fare delle promesse e cercheremo di mantenerle. Quindi inizio scoppiettante per Overbooking, dai, ce la facciamo. Allora, se Daniele con le sue grandi doti di tecnico radiofonico ce lo permette, andiamo a salutarvi con una canzone che ha scelto Alice. Chi è l'artista, Alice? È Jason McNiff. Una persona assolutamente sconosciuta, un grosso punto di domanda che si leva sopra la mia nuca, però il titolo è evocativo, si chiama Nobody's Son, questo è Jason McNiff. Ciao a tutti. Ciao. Up to your knees, take the money and pay the fees. Devil's easy to please in this life that I lead. Feel like going down to the river for to drown. Is there anyone in this town who can save me? Think I'll tell a tale of some lovers who went stale, who went off the rails after the child was born. She stabbed him through the heart with a dagger in the dark. Now in jail she starts to feel forlorn. True love, freedom. The babe became a boy and the boy became a man. Can they save him? Nobody's child did not again. I think of you every single day, it's true. Gone a leaf's a silver dew, you're in my mind. I'm just a drunken fool, sentimental, sometimes cruel. Nothing much to do but think and die. Courage is a single thing to sort the boys out from the men. If anyone tells you that again, you've heard it before. I'm not nobody's son, but I feel different to anyone. Can't walk, I have to run as I sing once more. left behind. Who knows, someday